Beh, la mostra intanto è ospitata nella nostra magnifica Aula Magna, che è, diciamo, il punto nevralgico ed è il monumento centrale della nostra Accademia, che è diventata da tantissimi anni anche l'incrocio di interventi, di eventi e incontro con artisti e professionisti. E quindi siamo molto contenti che i sette pezzi, le sette fotografie di Dino Migliori degli inizi degli anni 70 siano appunto a fianco delle opere classiche della nostra Accademia, perché sono convinto che Dino Migliori sia ormai da reputare tra i grandi artisti classici della fotografia italiana e internazionale. Le fotografie sono state scelte ovviamente dal curatore, da Oudò, diciamo, dai curatori, ma principalmente da Nino Migliori stesso, che ha voluto riproporre, ripresentare queste fotografie che non sono state fatte di recente, ma sono parte dell'archivio storico di Nino Migliori, in particolare dedicate appunto a dei manichini. E ci sembrava molto bello che il manichino, che è un oggetto che è molto presente anche nei nostri laboratori, pensiamo semplicemente al corso di fashion design, potesse essere in qualche modo evocato e riproposto all'interno della nostra Aula Magna con le opere magnifiche di Nino. Era molto interessante, diciamo, il legame proprio tra il tema dei manichini e il tema dell'identità. Mi vuole dire qualcosa al riguardo? Beh, certo, il tema dell'identità è un tema diciamo molto indagato e che anche noi molto spesso proponiamo nella ricerca dei nostri giovani artisti e degli studenti che frequentano l'Accademia, perché chiaramente il tema identitario è talmente plurale, talmente articolato, che offre una serie di sfaccettature sempre nuove e offre delle opportunità di analisi e di ricerca che difficilmente si ripetono. Quindi l'identità è appunto il mostrare e il saper riconoscere, e ovviamente la fotografia è uno dei linguaggi che sicuramente, insieme, come dire, al disegno, no, è in grado di riproporre e di riprodurre le identità. Diciamo che le occasioni di collaborare con istituzioni bolognesi come Oudò è per noi fondamentale, perché Accademia vuole portare all'interno dei propri spazi, dei propri laboratori, offrire ai propri studenti opportunità di confronto, ed è ovvio che anche questi momenti sono momenti integrati nella nostra didattica.